Poretto, la mia vita ricomincia tra le stelle. Eh sì, tra le stelle. Amore mio, ritornerò io, prega soltanto Dio, ci creda a questa guerra, non finirò steso per terra. Dopo mesi di fatiche, dopo mesi di stronzate, solo te posso volere, solo te io voglio. Ho perso un braccio per amore, ma voglio tornare attraverso il mare, ti voglio tanto bene, a tanto punto che io per te non ce le vedo. Ho perso un braccio per amore, ma voglio tornare attraverso il mare, ti voglio tanto bene, a tanto punto che io per te non ce le vedo. Casa come una bella rosa, non c'è nessuno, chiederò a qualcuno. Dov'è finito il tuo amore? Mi hai abbandonato solo come un cane bastonato. Mi avvicino al gruppo sul mare, io da Dio voglio tornare. L'unico amico su cui ci si può veramente fidare. Caro Dio, prepara un letto e due ragazze più belle. La mia vita ricomincia tra le stelle.